sento che non si muoverà. Voglio scendere e tuffarmi nell'acqua limpida. Ora lì, sordo all'anima e al pensiero che sono io, sordo ad ogni cosa che, ogni cosa che comunica con l'anima. Il suo cervello ed il suo sguardo negano ogni realtà. Chiuso in una casa che è prigione ad ogni pura libertà. Sotto i piedi mentre il corpo lancia il suo.